Io mi guardavo le mani, cercavo di riflettere, tutti i miei pensieri si confondevano, solo i miei sentimenti si fecero limpidi. Jag är kronprinsessan, mormorai in svedese e aggiunsi goffamente. Ho incominciato a studiare lo svedese, volevo darmi da fare, ma a quanto pare non basta. Nessuna risposta. Allora alzai la testa. Madame, avreste indotto Sua Maestà il Re a nominare reggente Giambattista se con ciò io non fossi diventata la moglie del reggente? Forse. Prendete ancora una tazza di tè, madame. Chi parlava era la capra belante. Scossi il capo. Vorrei essere certa che voi rifletterete alle mie parole e che vi regolerete secondo esse, disse la voce fredda della regina. Sto appunto riflettendovi. Non dovete in nessun momento dimenticare il posto che occupa il nostro amato figlio, il principe ereditario, madame, concluse la regina, e questo mi fece perdere la pazienza. Vostra Maestà mi ha orora rimproverato che io non so dimenticare chi e che cosa era il mio compianto papà. Adesso mi ammonite a non dimenticare la condizione di mio marito? Vi prego di prendere nota una volta per tutte che io non dimentico niente e nessuno. Senza attendere un cenno della regina mi alzai. Al diavolo l'etichetta! Le tre dame sedevano anche più rigide, feci un profondo inchino. Nella mia patria, a Marsiglia, ora fioriscono già le mimose, madame. Appena farà un po' più caldo tornerò in Francia. Questo fece effetto. Tutte e tre balzarono in piedi. La regina mi fissò spaventata, la vecchia capra incredula e perfino il volto della regina vedova parve sorpreso. Tornate in Francia? Balbettò la regina. Quando avete preso questa decisione, cara figlia? In questo momento, maestà. È politicamente inopportuno, certamente inopportuno. Dovrete parlarne col mio caro figlio, col principe ereditario, disse rapidamente. Non faccio mai nulla senza il consenso di mio marito. E dove abiterete a Parigi, madame? Là non avete un palazzo, si fece sentire agitata la capra. Non ne ho mai avuti laggiù e abbiamo conservato la nostra casa nella Rue d'Anjou. È una casa comune, non è un castello, ma è molto bene arredata. Dichiarai e subito aggiunsi: Non ho bisogno di un castello, non sono avvezza ad abitare nei castelli. Io li odio addirittura i castelli, madame. La regina aveva ripreso la padronanza di se stessa. La vostra villa nelle vicinanze di Parigi sarebbe forse una residenza più degna per la principessa ereditaria di Svezia. La Grange? Ah, oh, ma noi abbiamo venduto la Grange e tutti gli altri nostri beni per pagare i debiti con l'estero della Svezia. Erano grossi debiti, madame. Ella si morse le labbra, poi subito. No, non va, non va. La principessa ereditaria di Svezia in una comune casa di abitazione a Parigi. E poi ne parlerò a mio marito. D'altra parte, non ho l'intenzione di viaggiare sotto il nome di Desideria di Svezia. Sentii che i miei occhi si empivano di lacrime. Ma no, non devo piangere adesso. Non devo dare alle tre donne questa soddisfazione. Gettai indietro la testa. Desideria, colei che è desiderata. Pua, prego Vostra Maestà di lambiccarsi il cervello per trovarmi un incognito. Posso ritirarmi adesso? E sbattei l'uscio, così forte che gli anditi marmorei ne rimbombarono. Come allora a Roma, in quel primo palazzo nel quale mi aveva sospinta la sorte. Dal salotto della regina andai difilato allo studio di Giambattista. Nell'anticamera uno dei ciambellani mi sbarrò il passo. Devo annunciare Sua Altezza Reale? No, grazie. Sono avvezza ad entrare senza essere annunciata nelle stanze di mio marito. Ma io ho l'obbligo di annunciare Vostra Altezza, insistette il ciambellano. Chi vi obbliga? Forse Sua Altezza Reale? Ma l'etichetta, altezza, da secoli! Lo spinsi da parte. Al mio contatto sussultò come se lo avessi ferito. Allora fui costretta a ridere. Non datevi pensiero, barone, non vi sarò più molto di impedimento all'osservanza dell'etichetta. Poi entrai nello studio di Giambattista. Giambattista sedeva allo scrittoio, studiava delle carte e intanto dava udienza al cancelliere Wetterstedt e ad altri due signori. È accaduto qualche cosa di straordinario, Desirée? No. Vorrei soltanto parlare con te. È urgente? Scossi il capo. No. Mi siederò qui zitta zitta in un angolo e aspetterò che tu abbia finito con questi signori. Incominciai poi a riordinare le mie idee e sentii con chiarezza di avere ragione. Divenni perciò più tranquilla. Ero soltanto addolorata, indicibilmente addolorata. I signori si inchinarono davanti a Giambattista, si inchinarono davanti a me e si mossero poi con la schiena rivolta alla porta per uscire dalla stanza. Dunque, che cosa c'è, ragazzina? Io parto, Giambattista. Appena verrà l'estate, le strade saranno migliori. Torno a casa, mio caro, disse a bassa voce. Soltanto adesso aprì gli occhi. Sei impazzita? Ma qui sei a casa? Qui, nel Castello Reale di Stoccolma? D'estate ci trasferiremo a Drottningholm, nella residenza estiva, un magnifico castello di diporto con un bel parco grande. Ti troverai tanto bene laggiù. Ma io devo andarmene, Giambattista. È la sola cosa possibile, insistetti, e gli riferii parola per parola il mio colloquio con la regina. Egli mi ascoltava in silenzio, le rughe diritte sulla sua fronte divennero più profonde, ad un tratto scattò come un uragano. E devo udire di queste assurdità? Sua Maestà la Regina e Sua Altezza la Principessa Ereditaria non vanno d'accordo? Del resto la Regina ha ragione, tu non ti comporti sempre come, ecco, come desidera la Corte di Svezia, ma imparerai perché non dovresti imparare. Ma io adesso, Dio sa se posso occuparmi di queste cose, hai un'idea di quel che sta succedendo e di quello che si prepara per i prossimi anni? Si alzò in piedi e venne presso di me. La sua voce era rauca per l'eccitazione. Ne va dell'esistenza dell'Europa. Il sistema di Napoleone fa acqua da tutte le parti. Al sud non ha più tregua da un pezzo. In Germania i suoi avversari si raggruppano segretamente. Quasi ogni giorno si tendono imboscate e si spara addosso ai soldati francesi. E nel nord. Si interruppe e si morse il labbro inferiore. Poiché non può più far conto sullo zar, Napoleone attaccherà la Russia. Capisci che cosa significa questo? Ha attaccato tanti paesi e tanti ne ha sottomessi, dissi io alzando le spalle. Lo conosciamo? Giambattista annuì. Sì, lo conosciamo. Meglio di tutti lo conosce il principe ereditario di Svezia. E per questo lo zar di tutte le Russie, nell'ora risolutiva per il suo destino, viene a consigliarsi col principe ereditario di Svezia. Giambattista respirò profondamente. E se i paesi soggetti sotto la guida dell'Inghilterra e della Russia si raccolgono in una nuova coalizione, si interpella la Svezia e allora la Svezia dovrà decidersi per Napoleone o contro di lui. Contro di lui? Questo vorrebbe dire che tu contro la Francia. Non pronunciai intera la frase. No, Napoleone e la Francia non sono la stessa cosa. Già da molto tempo, non sono più dai giorni del brumaio che né lui né io abbiamo dimenticati. Perciò egli ammassa truppe anche alla frontiera della Pomerania svedese. Se vincerà la guerra contro la Russia, stritolerà semplicemente la Svezia e metterà uno dei suoi fratelli sul trono del re. Ma durante la guerra con la Russia gli farebbe comodo avermi al suo fianco. Per ora cerca di comprarmi. Offre continuamente la Finlandia. Vuole parlare allo zar. In fin dei conti lo zar è ancora ufficialmente suo alleato. Ma tu dici che lo zar non cederà mai la Finlandia? Naturalmente, mai. Ma gli svedesi non riescono ad abituarsi a questo pensiero. Io peraltro troverò loro un compenso per la Finlandia. Sorrise improvvisamente. Se Napoleone sarà battuto, se in Europa si farà il grande sgombero, il più fedele alleato di Napoleone dovrà pur pagare uno scotto, parlo della Danimarca. Allora, su proposta dello zar, la Danimarca rinuncerà alla Norvegia e la Norvegia sarà riunita alla Svezia. E questo, ragazzina mia, non è scritto nelle stelle, è scritto sulla carta geografica. Napoleone non è ancora battuto, dissi io. E poi tu hai sempre detto che si tratta del destino della Svezia e non capisci che anche soltanto per questo io devo tornare a Parigi? Ah, se tu sapessi come sono stanco, non insisteresti così caparbiamente su questo punto. Non posso lasciarti partire. Qui tu sei la principessa ereditaria, basta, non contraddirmi. Qui non posso fare che del danno e a Parigi potrei essere molto utile. Ho già considerato bene ogni cosa. Ma non fare la bambina. Vorrai forse spiare l'imperatore per me? Ho già le mie spie a Parigi, stai tranquilla. Posso anche dirti che il nostro vecchio Talleyrand è in corrispondenza segreta non soltanto con i Borboni, ma anche con me, e Fouché è caduto in disgrazia. Qui lo interruppi. Non voglio fare la spia, Giambattista. Lo sai tu che cosa succederà quando si farà, come lo chiami tu, il grande sgombero? Tutti i paesi che Napoleone ha privato della loro indipendenza cacceranno i Bonaparte. Ma la Francia era una repubblica prima che Napoleone si facesse incoronare. E per questa repubblica è corso tanto sangue. Dici che Talleyrand corrisponde segretamente coi Borboni? Non si vorrà costringere la Francia a richiamare i Borboni? Giambattista alzò le spalle. Sta tranquilla. Le vecchie dinastie fanno lega tra loro e lo tenteranno, ma che cosa c'entra questo con noi, con te e con me? Le vecchie dinastie cercheranno allora di escludere dalla successione al trono di Svezia l'antico generale giacobino Bernadotte. E chi sarà allora con te? Io non posso far altro che servire con tutte le mie forze gli interessi della Svezia. Ogni franco che ho potuto risparmiare durante la mia vita lo butto in questo paese per risollevarlo. Non penso neppure per un attimo a me o al mio passato. Penso soltanto a una politica che possa assicurare l'indipendenza della Svezia. Se mi riesce, Desirée, se mi riesce, si farà anche l'unione tra la Svezia e la Norvegia. Adesso era appoggiato alla stufa e si copriva gli occhi arrossati con la mano. Di più non si potrà chiedere ad un uomo. E fino a che l'Europa avrà bisogno di me per combattere Napoleone, l'Europa mi difenderà. Poi chi resterà con me, Désirée? Il popolo svedese, Giambattista. Solo il popolo svedese. E chi conta è lui. Sta con gli svedesi che ti hanno chiamato. E tu, ragazzina? Io non sono che la moglie di un uomo probabilmente geniale. E non la Desideria che si augurava la nobiltà svedese. Io metto in pericolo il tuo prestigio, la nobiltà di cui si prenderà gioco di me e i borghesi crederanno di più ai loro nobili che ad una straniera. Lasciami partire, Giambattista, la tua posizione ne sarà rafforzata. Sorrisi mestamente. Al prossimo attacco apoplettico del re ti nomineranno reggente, poi potrai fare meglio la tua politica assumendo la reggenza. Tutto ti sarà facile senza di me, caro. Tutto questo sembra molto ragionevole, ragazzina, ma no, no! Prima di tutto non posso dare come ostaggio in mano di Napoleone a Parigi la principessa ereditaria di Svezia. Le mie decisioni sarebbero intralciate se ti sapessi in continuo pericolo e... Davvero? Non è molto che tu, subito dopo il tuo arrivo in questo paese, hai pregato il Consiglio di Stato di non avere riguardo per ciò che tu hai di più caro. Allora eravamo ancora in territorio francese, Oscar ed io. No, Giambattista. Tu non puoi avere di questi riguardi. Se gli svedesi devono essere con te, anche tu devi essere con loro. Presi la sua mano, lo attirai sul bracciuolo della poltrona, mi strinsi a lui e poi, credi davvero che Napoleone farebbe arrestare la cognata di suo fratello Giuseppe? È molto improbabile, non è vero? E poiché ti conosce, sa che non gioverebbe a nulla, vedi? Mi ha regalato una pelliccia di zibellino proprio mentre riceveva una lettera di rifiuto dal governo svedese. Non mi si prende sul serio. Lasciami partire, caro. Scosse il capo con violenza. Io lavoro giorno e notte. Nelle ore libere poso le prime pietre di nuovi edifici e ricevo i rettori delle università. Nella pausa meridiana mi faccio condurre alla piazza d'armi e cerco di insegnare ai miei svedesi come fa Napoleone a istruire i suoi soldati. Non potrai resistere se non ti sentissi vicina, Desirée. Io ho bisogno di te. Altri hanno più bisogno di te, Giambattista. Forse verrà un giorno in cui la mia casa sarà la sola, in cui potranno riparare mia sorella e i suoi figli. Lasciami partire, Giambattista, ti prego. Ma Desirée, il bambino ha bisogno di te. Puoi pensare sul serio di separarti per molto tempo da Oscar? Io non so che piega prenderanno gli avvenimenti. Forse non potrai tornare tanto presto. L'Europa diverrà un solo grande campo di battaglie, tu e io, caro. Intanto non ti potrei accompagnare al fronte e il bambino. Sì, il bambino. Avevo sempre cercato di rimandare questo pensiero. Il pensiero di separarmi da Oscar era come una ferita aperta e bruciava. Il bambino, mio caro, adesso è un principe ereditario, circondato da tre maestri e da un aiutante. Da quando siamo giunti a Stoccolma ha trovato ben poco tempo per me. Conosco il suo orario, ogni minuto vi ha calcolato. Da principio sentirà molto la mia mancanza e poi si convincerà che un principe ereditario non deve lasciarsi dominare dai suoi sentimenti, deve soltanto sentire i suoi doveri. Così nostro figlio sarà educato proprio come un principe di nascita e nessuno in futuro lo chiamerà re, perché parvenu, Giambattista. Posai il capo sulla spalla di Giambattista e piansi. Ah, tu mi bagnerai ancora di lacrime l'imbottitura della spalla, come allora quando ci siamo conosciuti. La stoffa della tua uniforme adesso è più fine, più morbida, non graffia più come allora, singhiozzai. Poi mi ricomposi e mi alzai. Credo che sia l'ora del desinare. Giambattista stava ancora seduto, immobile, sul bracciuolo della poltrona. Non appena mi allontanai dalla stufa, sentii il freddo glaciale che si appiatta in tutti gli angoli. Lo sai che in questa stagione a Marsiglia fioriscono già le mimose? Mi passò per la mente. Il cancelliere mi ha promesso che avremo la primavera tra 4 settimane e Wetterstedt è un uomo attendibile, mormorò Giambattista. Lentamente mi avviai verso la porta. Con tutte le fibre del mio cuore attendevo una parola da lui. La sua decisione, volevo accoglierla come una sentenza. Sulla soglia mi fermai. Qualunque cosa decida, sarà uno strazio per me, sentivo. E come giustificherò la tua partenza alle loro maestà e alla corte? Disse questo come di passaggio, come una cosa senza importanza. La sentenza era pronunciata. Dirai che per ragioni di salute devo andare a Plombières per i bagni e che trascorrerò l'autunno e l'inverno a Parigi perché non sopporto questo clima rigido. Poi uscii in fretta. Castello di Drottningholm in Svezia, ai primi di giugno 1811. Come seta verde azzurra si inarcava il cielo notturno sul parco. La mezzanotte è passata da un pezzo e ancora non fa buio. Le notti estive nel nord sono chiare. Ho chiuso le cortine e ho addirittura fatto mettere alle mie finestre delle tende scure per poter dormire. Ma ho dormito male. Non so se per colpa del verde crepuscolo o della mia imminente partenza. Domani mattina inizierò il viaggio di ritorno in Francia. 3 giorni fa la corte si è trasferita nella residenza estiva, il castello di Drottningholm. Fin dove arriva lo sguardo non si vedono che aiuole e riquadri di prato, viali di tigli, potati a filo, sentieri tortuosi. Ma se si arriva al termine del vasto parco, si trovano improvvisamente prati intatti, sui quali crescono delicate betulle e fioriscono primule gialle e giacinti color azzurro cupo. Le notti chiare hanno un profumo dolcissimo e tutto sembra irreale, come in un sogno. Non si dorme veramente, ma si fissa la luce crepuscolare. Non è notte e non è giorno. In questa luce di crepuscolo stanno, nella mia vita, questi ultimi giorni, prima della mia partenza, questi ultimi colloqui, irreali nella loro schiettezza, il congedarsi, doloroso e pur facile, perché mi sarà concesso di ritornare. Oscar, figlio mio, la tua mamma non parte per la Francia soltanto per ragioni di salute. Non è una partenza per i bagni e non ti vedrò per molto tempo, figlio mio. E quando ti rivedrò non sarai più bambino, almeno non più il mio bambino. Sarai un vero principe, un'altezza educato per il trono. Per il trono bisogna nascere o esservi educati. Giambattista è nato per governare. Quanto a te, ci faremo educare. La tua mamma invece non è nata, né è stata educata per regnare e per questo, tra poche ore, ti stringerò ancora una volta il mio cuore e partirò. Per più settimane la corte non poteva adattarsi al pensiero che io volessi partire davvero. Parlottavano tra loro e mi gettavano incuriositi delle occhiate furtive. Mi aspettavo che se l'avessero a male con me, ma stranamente se la sono presa con la regina. Si afferma che la regina non è stata una suocera benigna con le sue frecciate. Già si rallegravano dei possibili intrighi tra sua maestà la regina e sua altezza la principessa e sono stati delusi. Domani verrà qui la mia carrozza e una ignota contessa di Gotland lascerà il paese. A Drottningholm sono venuta anch'io soltanto perché volevo vedere il famoso castello di Diporto dei Vasa nel quale d'ora innanzi Oscar trascorrerà le sue estati. La stessa sera del nostro arrivo, nel teatrino costruito e tanto riccamente addobbato dal pazzo Gustavo III, venne data una recita. Beata nel suo dilettantismo, la Koskull ha cantato alcune arie. Il re applaudiva, estasiato, ma Giambattista la osservava indifferente. Strano. Per un momento in questo lungo inverno ho creduto E adesso che mi sono decisa a partire, l'alta Coscul dalla sana dentatura, la Valchiria dallo scudo dorato, la dea del campo di battaglia, ha perduto per Giambattista ogni fascino. Mio caro, io parto. Ero pronta a gravarmi di un grosso affanno. Forse che mi attende un affanno maggiore. Le parole dette nella mezza luce di quest'ultima sera sono state ben chiare. Le loro maestà hanno dato in mio onore una cena di commiato e dopo la cena si è persino un po' ballato. Il re e la regina erano seduti su di una poltrona dorata dall'alta spalliera rigida e sorridevano benignamente, cioè il re era semplicemente convinto di sorridere benigno, aveva un aspetto doloroso con il lembo della bocca a penzoloni, col suo viso inintelligente. Ho ballato col barone Mörner, che allora ci recò il messaggio, col cancelliere Vetterstedt e col ministro degli esteri Engström, che parla sempre della Finlandia, anche col meno anziano dei segretari di gabinetto di Giambattista, il nostro conte Brahe, ho ballato. Fa caldo nella sala, vorrei prendere un po' d'aria. Ed uscimmo all'aperto. Voglio ringraziarvi, conte Brahe. Voi siete stato da cavaliere al mio fianco e io so che altrettanto cavallerescamente vi troverete domani presso la mia carrozza per prendere congedo da me. Voi avete fatto tutto ciò che era in vostro potere per agevolarmi agli inizi. Perdonatemi se vi ho deluso. L'inizio è al suo termine. Egli aveva chinato la bruna testa e si mordicchiava i baffetti che si lasciava crescere. Se vostra altezza desidera, incominciò, ma io scossi energicamente il capo. No, no, no, caro conte, credetemi. Mio marito è un buon conoscitore di uomini. Se nonostante la vostra giovane età vi ha nominato segretario di gabinetto, vuol dire che ha bisogno di voi, è proprio qui, in Svezia. Gli porsi la mano. Vi prego con tutto il cuore di stare fedelmente al fianco di mio marito. Mio marito ed io abbiamo l'impressione che i nostri amici e servitori francesi non siano qui bene accetti, perciò il colonnello Villat, il più anziano e il più fedele degli aiutanti di mio marito, torna con me a Parigi. Cercate di sostituirlo. Mio marito si sentirà molto solo. Ci vedremo ancora domattina, conte. Non rientrai subito nella sala da ballo, ma discesi lentamente, come intontita, nel parco. Passai davanti alle siepi potate. Qui è tutto così ancien régime. Non sono ancora 20 anni che il bizzarro Gustavo III celebrava qui le sue famose feste all'aperto. I giardinieri sanno bene quanto egli abbia amato questo parco. Quante volte si è travestito per dare un ballo mascherato. In questa notte il parco sembrava sterminato. Il figlio dell'ucciso fu dichiarato demente. Una congiura e il demente fu costretto ad abdicare e dapprima fu portato qui, prigioniero. Qui, in un castello di diporto. Me lo hanno raccontato minutamente. Per questi viali graziosi camminava su e giù, e dietro lui camminavano i guardiani. Parlava tra sé e con i tigli, nella sua disperazione, nella sua impotenza, nella sua follia, e laggiù, presso il padiglione cinese, sua madre ogni giorno lo aspettava. Madre di un pazzo, vedova di un assassinato, Sofia Maddalena. Sommesso cantava tra le foglie il vento d'estate. Allora io vidi l'ombra. L'ombra si muoveva verso di me. Gettai un grido, volli fuggire e mi sentii paralizzata. Mi dispiace di avervi spaventata. Vicinissima davanti a me, sulla ghiaia inondata dal lume della luna, stava la regina vedova nelle sue vesti nere. Voi mi avete aspettata, madame? Domandai e provai vergogna perché dal gran batticuore riuscivo appena a parlare. No. Non potevo sapere che voi preferite una passeggiata al ballo, madame, disse con la sua voce incolore. Io invece passeggio sempre nelle belle notti d'estate. Dormo molto male, madame, e questo parco fa rivivere molti ricordi, naturalmente per me, madame. Non potevo facilmente rispondere. Suo figlio e suo nipote sono stati esiliati e sono stati chiamati mio marito e mio figlio. Mi accomiato da questi viali che appena conosco. Parto domattina per tornare in Francia, dissi educatamente. Non mi aspettavo di potervi parlare da sola, madame. Sono lieta di questa occasione. Procedemmo oltre, l'una a fianco dell'altra. I tigli potati odoravano. Non avevo più paura di lei, Dio mio, una vecchia signora in vesti nere. Penso spesso alla vostra partenza e credo di essere la sola che ne conosce le ragioni. È meglio non parlarne, dissi io, e incominciai ad affrettare un po' il passo. Allora ella prese il mio braccio. L'improvviso contatto mi spaventò al punto che indietreggiai. Avete proprio paura di me, figlia mia. La sua voce aveva preso colore e suonava molto triste. C'eravamo fermate. Oh no, cioè, ho paura di voi, madame. Avete paura di una donna malata e sola? Annuì con forza. Perché mi odiate? Proprio come le altre donne della vostra famiglia, come Sua Maestà la Regina, come la principessa Sofia Albertina. Io vi disturbo soltanto, sono un'estranea qui. Mi morsi le labbra. Non giova parlare di questo, ciò non cambia le cose. Vi capisco molto bene, madame, noi due cerchiamo esattamente la stessa cosa. Spiegatemi, vi prego, che cosa intendete dire con questo? Mi vennero le lacrime agli occhi. Quest'ultima sera era così indescrivibilmente atroce, così singhiozzai, ma una sola volta, poi mi ero già dominata. Voi rimanete qui in Svezia, madame, perché la vostra presenza abbia sempre da ricordare il vostro figlio esiliato e il vostro esiliato nipote. Finché sarete qui non si potranno dimenticare gli ultimi vasa. È probabile che preferireste vivere senz'altro con vostro figlio in Svizzera. Le sue condizioni economiche devono essere piuttosto modeste. Potreste governargli la casa e rattoppargli le calze invece di ricamare delle rose nel salotto di Sua Maestà. La mia voce si abbassò. Stavo rivelandole il nostro comune segreto. Ma voi restate, madame, perché siete la madre di un re esiliato e restando servite il suo interesse. Non ho forse ragione? Ella non si mosse. Stava ritta, magra, ombra nera nel verde crepuscolo. Avete ragione. E perché partite voi, madame? Perché in tal modo servo nel miglior modo l'interesse del futuro re. Tacque lungamente. Proprio questo ho pensato, disse poi. Note, staccate, di chitarre trascorrevano tra gli alberi. Una donna cantava, un brandello di gorgheggio aleggiò per il parco. Era la voce della Coscul. Siete anche certa, con la vostra partenza, di fare il vostro interesse? Domandò la vecchia signora. Certissima, madame. Penso ad un lontano avvenire e a Re Oscar I, risposi sottovoce. Poi mi inchinai profondamente davanti a lei e rientrai sola nel castello. Le 2 di notte. Nel parco incominciano a cinguettare gli uccelli. In qualche luogo di questo castello abita una vecchia signora che non può dormire. Forse vaga per il parco. Lei rimane. Io parto. In carrozza durante il viaggio dalla Svezia alla Francia, fine giugno 1811. Il mio passaporto è intestato al nome di una contessa di Gotland. Gotland è una grossa isola svedese. Non la conosco, è stata la regina in persona a escogitare questo titolo. A nessun costo ella può ammettere che la sua diletta figlia viaggi come principessa ereditaria modestamente per l'Europa, ma era anche necessario evitare di far chiasso. Desideria, la cosiddetta desiderata, dopo pochi mesi ha già lasciato la sua nuova patria. La regina è addirittura venuta alla mia carrozza per prendere commiato da me. Oscar singhiozzava che era uno strazio vederlo e cercava di non farsi scorgere. Ella gli posò per consolarlo la mano sulla spalla, ma il bambino si scosse tutto e l'allontanò. Promettetemi, madame, la pregai, di badare che il bambino vada a letto ogni sera alle 9. Giambattista si portò la mia mano alle labbra. Il conte Rosen sarà sempre al tuo fianco per qualunque cosa succeda, disse. Il conte Rosen, il mio nuovo aiutante, il miglior amico del giovane conte Brahe. Il nuovo giovane con la sciarpa di aiutante e i lucidi capelli biondi batté i tacchi. Comparve il conte Brahe, ma non parlammo più insieme. Vi auguro un felice viaggio, madame, disse la regina ed improvviso parve vecchia. Sembrava che avesse dormito male. Le borse sotto i suoi pallidi occhi erano gonfie. Chi mai ha dormito bene questa notte? La contessa Levenhaupt? Lei sì, ha dormito bene. È intervenuta raggiante a questo commiato. Adesso non è più dama di corte della figlia di un mercante di sete. Anche la Coscula appariva fresca e fiorente, egregiamente truccata e sicura di vincere. Vedeva delle possibilità, senza dubbio vedeva delle possibilità. Da ultimo si serrarono con tanto fervore intorno a me che spinsero Oscar da una parte. Ma il ragazzo si fece strada con i gomiti. Oscar ormai è alto quasi come me. Non ci vuole molto per questo, ma per la sua età Oscar è alto davvero. Lo attirai rapidamente a me. Che Dio ti protegga, caro. Sentii il fresco profumo dei suoi capelli. Di sicuro questa mattina è già uscito a cavallo. Oscar odora di sole e di fiori di tiglio. Mamma, non potresti rimandare? È tanto bello qui. Che gioia che lui trovi tutto qui così bello. Che gioia. Montai in carrozza. Giambattista mi adattò un cuscino dietro la schiena. Lalla Flotta si sedette accanto a me. Poi montarono Villat e il Conte Rosen. Maria e Ivette viaggiavano in un'altra carrozza. Quando i cavalli si mossero, mi sporsi e guardai la facciata con la fila delle finestre. Sapevo che al primo piano doveva esserci una figura nera. C'era. Ella restava. Io partivo. Quando arriveremo a Plombières non avremo un solo modello estivo di quest'anno, osservò Lalla Flotte. Dovremo andare prima a Parigi per fare gli acquisti. Al margine della strada ci sono dei bambini biondi e fanno cenni di saluto. Io rispondo. Ho già nostalgia del mio Oscar.